Anche adesso lei ha una scorta? Ho un apparato, un dispositivo di tutela molto inferiore a quello che avevo a Reggio Calabria. A Reggio Calabria avevo la scorta. Qui viaggio su un'auto blindata con la tutela. Il suo dispositivo di sicurezza non è stato modificato o potenziato dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Di Fiore, che hanno fatto emergere un piano da parte della Camorra per attentare alla sua vita? No. Il dispositivo non è stato modificato. C'è poi il problema che spesso viene sollevato del sottodimensionamento di molte procure italiane che hanno mezzi scarsi per poter svolgere un efficace lavoro d'indagine. I mezzi in questo momento storico sono veramente scarsi dal punto di vista operativo, ma sia della magistratura che delle forze di polizia. È una contingenza che mi auguro che prima o poi passerà. Quello che però non deve passare, su cui non si può risparmiare, è sull'apparato della sicurezza dei magistrati, perché un magistrato poco serio è un magistrato che fa male il suo lavoro. Il profilo della sicurezza, ripeto, è quello su cui uno Stato in terra di Camorra non dovrebbe mai risparmiare. Uno Stato che si presenta di fronte alla Camorra debole da quel punto di vista è uno Stato che non dà sicurezza alla collettività, che deve essere soprattutto quella che deve essere consapevole che chi combatte la Camorra ha quantomeno gli stessi strumenti della Camorra. Esiste un problema complessivo di sicurezza dei magistrati, sostiene Giuseppe Cascini, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati. Purtroppo la situazione di esposizione a rischio di molti magistrati italiani è ancora una realtà attuale drammatica. Solo negli ultimi tempi si sono registrati episodi inquietanti di minacce da parte della criminalità organizzata nei confronti dei magistrati impegnati in delicate inchieste. In più abbiamo avuto anche episodi di minacce, aggressioni, intimidazioni e violenze anche nei confronti di magistrati non impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata. Quindi c'è un problema complessivo di sicurezza dei magistrati, probabilmente sottovalutato dalle istituzioni preposte alla sicurezza e che sta diventando un problema molto serio. Toghe minacciate, toghe che si macchiano del sangue di chi, con senso del dovere, le ha indossate fino all'ultimo giorno. Tra il 1969 e il 1995 sono stati 27 i magistrati italiani assassinati dalla criminalità, da Agostino Pianta a Paolo Adinolfi, scomparso misteriosamente a Roma il 2 luglio 1994. Per salvarli da una seconda morte, l'oblio, Paride Leporace, fondatore del quotidiano Calabria Ora e direttore del quotidiano della Basilicata, ha scritto il libro Toghe Rosso Sangue. Una emblematica, a mio parere, ed è quella del giudice Adinolfi, giudice civile del Tribunale di Roma, che esce di casa e viene giudicato scomparso un po' alla Maiorana, diciamo, come il professor Caffè. In effetti, invece, il giudice Adinolfi si stava occupando di questioni abbastanza inquietanti nel Tribunale di Roma, dove la sezione civile adombrava molti sospetti, ne aveva parlato anche a Milano ai magistrati di Mani Pulite. Noi oggi non abbiamo neanche il corpo di questo magistrato, abbiamo solo dei lacerti giudiziari che ipotizzano che probabilmente è stato rapito e ucciso, e abbiamo soprattutto una famiglia che non ha un posto dove piangere il proprio defunto. Pagine che arrivano in teatro con un testo adattato da Giacomo Carbone, che ripercorre storie dimenticate come quella di Bruno Caccia, procuratore della Repubblica di Torino, che indagava sulle infiltrazioni della criminalità organizzata. Fu ucciso il 26 giugno 1983 dai sicari dell''Ndrangheta. La storia di Bruno Caccia, a memoria soltanto in Piemonte, incrocia la Calabria, ma la Calabria nel 1983 è una regione distratta che non sa che si può morire a Torino per mano dell''Ndrangheta o dei figli dell''Ndrangheta. Questo spettacolo è un gesto di impegno civile, racconta il regista e attore Francesco Marino. Il bisogno di un gesto da parte mia di dare voce a una dimensione etica, civile, di libertà, di giustizia che sta dentro di noi. Non dimenticare è un gesto di civiltà, è un gesto, come dire, di impegno civile. Chissà se Caccia li ama i suoi nemici. Lo hanno ammazzato sotto casa sua, 14 colpi, 3 alla nuca prima che avesse il tempo di benedirli. La Calabria è sabbia e vento, In Calabria si muore. In Calabria si muore. Si muore per tirare a campare. Per tirare a campare. Era la seconda edizione di Italia in Controluce, siamo su Facebook, pagina e gruppo, ci trovate su Twitter e sul nostro sito radio24.it. Torniamo domani alle 6.30 con nuove storie su Radio 24.